Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Selezionare nuove varietà di pomodorini ricchi di vitamina C, ma soprattutto molto resistenti agli ambienti caldi e all'attacco di eventuali patogeni. Questo è l'obiettivo, ma anche il primo risultato di uno studio ancora in corso realizzato dal CREA Orticoltura e Florovivaismo e dall'Università Politecnica di Valencia nell'ambito del progetto Horizon 2020 Bresov, coordinato dall'Università di Catania, che vede coinvolte ben 22 istituzioni di ricerca di 13 paesi. Dunque, alla lotta al cambiamento climatico, qualcosa che ormai possiamo misurare con i nostri sensi, è ormai imprescindibile affiancare anche l'adattamento climatico. Il clima infatti non solo cambierà, ma è ormai già cambiato, e tra i settori maggiormente investiti dal cambiamento climatico vi è senza dubbio l'agricoltura, che però per adattare le coltivazioni può contare su un alleato eccezionale, la straordinaria varietà degli organismi vegetali, tra i quali di certo non fa eccezione il pomodoro. Da qui, da questa riserva di varietà, sono partiti i ricercatori europei del progetto Bresov, che recentemente hanno anche pubblicato i primi risultati su Horticulture Research, una rivista prestigiosa del gruppo Nature, e per parlarne abbiamo in linea con noi Pasquale Tripodi, ricercatore del CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura. Buonasera Tripodi, benvenuto. Buonasera, salve a tutti. Allora, per prima cosa le chiedo di spiegarci un po' più dettagliatamente, diciamo così, qual è l'obiettivo della vostra ricerca e anche qual è il materiale da cui siete partiti. Allora, come diceva lei, l'obiettivo del progetto, il progetto è un'iniziativa di ricerca internazionale finalizzata ad ottenere nuove linee resilienti e sostenibili, in modo particolare per la filiera della coltivazione biologica, ma anche per dei agrosistemi orticoli molto più ampi. È un progetto che riguarda sia il pomodoro, ma anche altre due specie di grosso interesse che appartengono alle famiglie delle leguminose e delle brassicacee. Noi ci stiamo occupando del pomodoro. In particolare di quelli, ecco, che noi chiamiamo pomodorini, no? Quelli ciliegini, sì. Quelli piccoli. Esatto. Perché stiamo focalizzando la nostra attenzione su queste varietà di ciliegino, di queste tipologie denominate da serbo? Perché ovviamente quando parliamo, lei prima accennato ai cambiamenti climatici e anche alla resilienza delle colture, quando parliamo di questo dobbiamo pensare a resistenze a stress da caldo, resistenze a mancanza di acqua, quindi a stress idrici. E queste varietà sono state selezionate nel corso dei decenni, ma forse anche dei secoli, certo, in ambienti mediterranei, quindi sud della Spagna, sud dell'Italia. Pertanto hanno sviluppato nel loro background genetico delle capacità di adattamento a queste condizioni climatiche. Ovviamente noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato delle tecniche molto avanzate di analisi genetica e abbiamo fatto soprattutto abbiamo raccolto una collezione molto ampia, grazie anche ai nostri colleghi spagnoli, per studiare queste varietà e per andare a identificare le regioni sotto selezione per questi caratteri che vogliamo studiare in confronto a quelle che sono le varietà comuni che vengono attualmente vendute sul mercato, e quindi per cercare di capire meglio le basi genetiche di queste caratteristiche. Di questo adattamento già avvenuto in queste varietà, esatto, a queste condizioni, sì, particolarmente dure. Quindi, se ho ben capito, poi voi cercherete, perché anche all'interno di ogni varietà c'è varietà, per così dire, cioè gli individui, i singoli, esatto, individui, sì, sono diversi. E quindi voi andrete, immagino, a cercare di selezionare quelli che tra gli individui già adattati sono i più adattati. È un po' questo il meccanismo? Esatto. Sì, esatto, i più promettenti tra queste varietà già adattate selezioniamo i migliori. Ecco, normalmente però è un processo molto lungo quello di selezione, voi l'avete, sì, accelerato. Sì, abbiamo accelerato perché abbiamo fatto una selezione molto avanzata utilizzando, come diceva prima appunto, delle tecniche molto profonde di analisi del DNA che ha permesso di andare a evidenziare sia le caratteristiche di queste varianti genetiche responsabili di queste tolleranze e resistenze, sia andare a identificare quali sono le cultivar migliori. Quindi a questo punto cosa state facendo, a che punto siete e quali saranno le attività future? Allora, attualmente queste varietà, noi abbiamo fatto già delle prove la scorsa stagione e stiamo ripetendo queste prove in diversi, quando parlo di prove agronomiche, in ambiente di coltivazione biologica, ripetute in diversi ambienti. Perché questo? Perché noi ovviamente dobbiamo andare a stimare qual è l'effetto dell'ambiente e vogliamo vedere poi queste cultivar effettivamente come si comportano in diverse E condizioni, non certo. solo ambientali, ma anche condizioni di stress indotto, nel senso abbiamo fatto delle prove inducendo degli stress idrici e degli stress da apporto di sostanze nutritive per capire Li come si comportano. mettete in campo, intanto già Sì. questa è una prova, e poi mi pare di capire, gli complicate anche un po' la vita perché Perfetto, gli complichiamo la estremizzate le vita, condizioni. gli diamo poca acqua, gli diamo poche sostanze nutritive, cerchiamo di Certo, metterle sotto stress, sì. vediamo quale tra queste varietà si comportano, rispondono in modo migliore. E ovviamente un obiettivo è anche quello di produrre nuovi sementi, produrre nuove varietà e sviluppare anche, diciamo, una filiera sementiera per il settore biologico. E quindi la produzione di nuove varietà ovviamente passa attraverso quelli che sono i programmi di breeding. Quindi stiamo facendo Di degli breeding, incroci, quindi di ossia. incrocio. Sì, di incrocio, esatto. Noi stiamo facendo degli incroci. Abbiamo trovato già delle varietà molto interessanti che hanno delle caratteristiche. Ad esempio, abbiamo visto alcune riescono a resistere bene a condizioni di stress da caldo, e alcune inoltre hanno ai test fitopatologici hanno risposto molto bene. Quindi abbiamo trovato delle varietà, no, non dico resistenti, perché la resistenza in genere si entra in un discorso molto più complesso, però molto tolleranti. Va bene, grazie Pasquale Tripodi. Bene, Grazie a voi e buonasera. ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento a domani. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.